Italia in controluce. È il pomeriggio di Radio 24, buongiorno a tutti da Daniele Biacchesi. Quella che state ascoltando è la seconda edizione di Italia in controluce, il programma di Radio 24 che trasmette ogni giorno in due edizioni, 6.30, 13.30, il meglio dell'informazione sulla cronaca italiana, il reportage, l'inchiesta. Il caso Tarantini, storia da prima pagina, scandalo nazionale, intrigo tra potere ed economia. Ma sullo sfondo di questa storia c'è una città del sud, Bari. Il reportage di Raffaella Calandra. Secondo me a una festa uno può invitare chi vuole. Qui siamo nel centro commerciale, in una delle strade principali di Bari. Pare che sia uno degli argomenti di cui più si conversa. E più se ne sa e più se ne vuole sapere, logico. Tramite la sanità pugliese è arrivata a Berlusconi. Ci possono essere tutte le donne per bene di Bari che, affascinati dall'andare alla festa di Berlusconi, sono disposte a tutti. Il discorso donne è relativo, il discorso è il nostro portafoglio, quella è la cosa che interessa i baresi. In via Sparano, a Bari, le storie dei vecchi affari di Giampaolo Tarantini si mescolano con i racconti sui lustrini delle feste che furono. Come il gossip si intreccia con la politica e i debiti di oggi sono l'altra faccia dei diamanti luccicanti di un tempo, quelli indossati e mostrati da Nicla, Giampi e Nicla, ovvero Giampaolo Tarantini e la moglie, già arrestati per la presunta estorsione al Premier. Tra i ristoranti alla Page o i frequentatori di locali glamour non si parla d'altro in città, soprattutto ora che anche la procura di Bari ha chiuso la sua inchiesta con 100.000 intercettazioni e un'accusa sullo sfondo. Tarantini reclutava, selezionava e pagava le donne per Silvio Berlusconi, suo tramite verso rapporti di tipo affaristico, scrivono i PM. Il problema è che la sanità pugliese è stata ridotta a pezzi negli ultimi 10 anni. Però è certo che Tarantini, quando faceva una festa al Gorgeous, non so se lei sa, un locale di Bari, spendeva 30.000 euro soltanto di champagne. Di Tarantini non parlano tanto bene, perché a Bari è conosciuto come una persona scorretta, una persona malavitosa. È tutto un bordello. Là c'è stato tutto un gioco proprio per arrivare a un qualche cosa in alto, sempre per guadagnare di più, ecco. Dai guadagni con le protesi, questo rampante barese insieme ai suoi soci, come Enrico Intini, imprenditore vicino al PD, puntava a commesse con molti zeri, con Finmeccanica e Protezione Civile. E proprio per questo la sua ora è una vicenda che coinvolge e preoccupa l'Italia intera per le ricadute politiche di questo terremoto, ma la città di Bari in particolare, con il mondo delle imprese in testa, per quelle macchie indifferenziate che lascia, come dice Alessandro Laterza, rappresentante della storica casa editrice barese. È vissuta molto male questa curiosa viraggio della reputazione della città, che da essere considerata da sempre una città molto vivace, molto attiva, improvvisamente si trova invece in questa posizione un po' imbarazzante di essere identificata come luogo degli scandali, e questo è un problema serio. Abbiamo molteplici tracce ormai che questo tipo di costume o malcostume è molto diffuso a tutti i livelli e in tutto il paese. Ma secondo lei il timore in questo momento di Bari è di essere marchiata appunto come una novella Sodoma? Bari deve in qualche maniera sostenere la propria reputazione. Queste macchie che appunto poi ingenerano un sospetto indifferenziato sono un serio problema. Quindi adesso lo sforzo deve essere quello di chiarire le cose e poi chiarire quello che noi siamo, e non siamo certo Tarantini e tutta la corte celeste che si è mossa per Palazzo Grazioni, questo è poco ma sicuro. L'immagine che i racconti di questa inchiesta sembrano un po' proiettare è quella di una ansia di fare velocemente carriera da parte di nuovi imprenditori attraverso scorciatoie. Chiunque sviluppi delle attività facendo leva non sulla propria capacità propositiva e competitiva, ma comprandosi dei favori, non è un imprenditore. C'è chi vede in questo forme nuove di corruzione. Sono oggettivamente forme nuove di corruzione. Per la verità, quello che ci racconta questo tipo di vicenda è una forma di degenerazione della vita politica. Ormai l'unica dimensione in cui la politica si esprime in maniera significativa è quella dell'intermediazione di risorse. Questo non è che, ahimè, uno dei mille episodi che ci raccontano questa storia, che è poi il motivo per cui il nostro sistema paese poi si presenta debole. Capisco che passare da Tarantini alla BCE può sembrare un salto azzardato, ma non lo è affatto. Non c'è più una discussione, per esempio, per un progetto di sviluppo, c'è solo un commercio e uno scambio di favori. Su questo credo che il nostro allarme, partendo se vogliamo da questo caso barese, dovrebbe essere molto più profondo e molto più forte. Dalle finestre aperte della sua casa entra il suono e il fermento di una città in pieno divenire, una città che questa inchiesta sta raccontando però con sempre minori confini tra ambienti e ruoli, come tra lecito e illecito. E chi conosceva Tarantini ora ne prende le distanze, come Alessandro Mannarini, protagonista insieme a lui di quella famosa estate 2008 in Sardegna da cui tutto partì. Non c'ero, non ci sono, non esisto. Ci penseranno i magistrati a capire com'è che è salito, com'è che è sceso, com'è che si è risalito, come che è risceso. Se io quell'uomo l'ho dimenticato, punto. Per... quell'uomo è poi una parola grossa, ma comunque l'ho dimenticato. E se da una parte a Bari c'è chi spera che questa possa essere anche l'occasione per allontanare dagli affari i furbetti e i cacciatori di scorciatoie, dall'altra la città si trova disorientata davanti ad un ciclone che travolge gli stessi magistrati. Il procuratore capo Antonio Laudati è infatti indagato a Lecce per abuso d'ufficio per i presunti rallentamenti alle indagini denunciate dal primo PM che si occupò del caso Tarantini, Giuseppe Scelli. Laudati mi chiese di fermare Tarantini, che era una mina vagante, dichiara a verbale. E mentre il 23 il procuratore si difenderà davanti al CSM, la tensione è forte in tutta la categoria, come racconta il presidente dell'ANM Barese, Marco Guida. Noi siamo ovviamente attenti a questo momento e speriamo, ripeto, che si possa far luce sulle questioni più buie che si sono in questo momento si stanno verificando. C'è chiaramente un fascicolo sulla vicenda aperto al CSM, ma è stata aperta anche proprio un'inchiesta dalla Procura di Lecce che ha indagato il procuratore capo di Bari, il procuratore Laudati. Questo non crea un problema di opportunità? Questi sono veramente valutazioni che deve fare direttamente l'interessato e deve fare il Consiglio Superiore della Magistratura. È anche vero che si leggono agli atti dichiarazioni di un altro magistrato, che era il primo PM ad occuparsi della vicenda, il dottor Scelzi, che leggiamo dal verbale, racconta di come il procuratore capo gli avesse chiesto di bloccare Tarantini. Tutto questo non getta un po' un'ombra sul ruolo stesso del procuratore? È proprio l'oggetto di quell'istruttoria che sta facendo il Consiglio Superiore della Magistratura. Certo, dispiace moltissimo che ci sia un contrasto così forte tra il procuratore capo e un sostituto che peraltro ha una sua validissima storia professionale. Questo sì che reca qualche problema o comunque qualche disagio in tutti quanti noi, perché ci rendiamo conto che tutto ciò getta un'immagine non positiva sull'ufficio giudiziario barese nel suo complesso. Non sono proprio quelle classiche situazioni che portano poi complessivamente un po' l'opinione pubblica a mettere un po' in dubbio l'autorevolezza della magistratura stessa? Sì, questo sicuramente è vero, però è anche vero che noi diciamo, oltre che se ci sono state le zone d'ombra, la magistratura è riuscita a intervenire. Turbamento dunque, confusione e incertezza, questo ora si respira tra le strade strette della Bari Vecchia come tra i palazzi venuti su troppo velocemente, velocemente come forse quella ricchezza che non è stata ancora digerita davvero da fette di una borghesia settimina, così l'ha ribattezzata Nicola La Gioia, scrittore barese che l'aveva descritta nel suo romanzo Riportando tutto a casa. E c'è una borghesia che arriva all'improvviso alla ricchezza, non ha ancora avuto modo di elaborare una cultura del denaro, ma si ritrova improvvisamente ad avere un sacco di soldi. Si tratta di una classe medio-alta che poi improvvisamente si ritrova nelle polveri e poi di nuovo sugli altari, per la quale appunto l'ostentazione è la cosa più importante. Io ricordo veramente di questi imprenditori che tu hai raccontato nel mio romanzo, ritrovatisi ricchi da un mese all'altro, poi acquistavano ville hollywoodiane, delle quali però per esempio poi non pagavano il mutuo e quando c'era un rovescio di fortuna rischiavano di perderli. Tarantini è un po' l'evoluzione del malavitoso classico, perché la tuta acetata si è trasformata in un gessato, il dialetto si è trasformato in un italiano ben padroneggiato. Era la seconda edizione di Italia in Controluce. Vi ricordo, avete la possibilità di darci le vostre impressioni non solo sul programma ma anche sui temi, prossimi temi che volete che noi sviluppiamo su Facebook, alla pagina del gruppo, su Twitter oppure via mail controluceradio24.it tutti i giorni 6.30, 13.30 naturalmente su Radio 24.